Dunque, dunque, il Presidente del Consiglio ha dichiarato, io l'ho letto su Repubblica del 18 ultimo scorso, che anche se come taluno auspica lo battostassero alle europee, si guarderebbe dal mollare la carica come aveva fatto a suo tempo D'Alema. Di evidenza immediata le motivazioni. Il signor D'Alema, ha detto il nostro, a Palazzo Chigi c'era arrivato con una congiura di palazzo. Mentre lui ci sta perché il 50% degli italiani, anzi il 49,8%, ha fatto una croce sul nome di Silvio Berlusconi. Niente di diverso, naturalmente, ci saremmo aspettati da lui. La cultura politica del paese è bassina e il capo di governo non può che rifletterla. Di fatto non sono state in tantissime a obiettare che in una repubblica parlamentare quale ancora la nostra, Berlusconi e D'Alema al governo ci sono arrivati secondo la stessa identica procedura, perché l'uno e l'altro hanno ricevuto il relativo mandato dal Presidente della Repubblica in carica sulla base dei rapporti parlamentari di volta in volta vigenti. E visto che, come è noto, le elezioni europee in sé non modificano la situazione in Parlamento, il problema non sarebbe tanto di obblighi costituzionali quanto di sensibilità politica, un tema che a chi sfoggia la pelle da rinoceronte come quella del Cavaliere dice davvero poco. Di uno che pone il voto di fiducia sulla difesa delle sue proprietà e che non riesce nemmeno a dimettersi dalla presidenza onoraria del Milan, è difficile pensare che possa, non diciamo capire, ma soltanto immaginare certe sfumature. Il fatto è che l'investitura parlamentare, che pure è bastata a tutti i presidenti del Consiglio della storia unitaria, e salvo quei due o tre come Mussolini e i suoi immediati successori che hanno preferito affidarsi al colpo di Stato, l'investitura parlamentare a Berlusconi non interessa affatto. Lui vuole l'investitura popolare. In un certo senso purtroppo l'ha anche avuta, nel senso che è vero che il 49,8%, se non proprio degli italiani, almeno degli elettori votanti, che non è la stessa cosa, ha fatto una croce sul suo nome. Di scarso interesse però per i più resta il fatto che quel nome sulla scheda ci fosse più che per legge sulla base di un discutibile escamotage. Nessuno ha mai cambiato, che io sappia, le norme costituzionali sull'investitura del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedendome per i sindaci delle grandi città e i presidenti delle province e delle regioni l'elezione diretta. Lui si è limitato ad aggirare le norme inserendo il suo nome come un motivo grafico nel simbolo della coalizione che lo sosteneva. È stato eletto così, con una procedura extralegale e probabilmente illegale. E il fatto che quei deficienti dell'opposizione, invece di strillare come aquile, si siano affrettati a imitarlo inserendo anch'essi nel simbolo dell'ulivo il nome del povero Rutelli non serve a sanare proprio niente. Come devo aver già avuto modo di ricordare, la pratica di battezzare le liste e personalizzare i simboli è stata inventata a suo tempo dal noto Marco Pannella, e dovrebbe bastare questo per far capire quanto nociva possa essere. Nessun sistema politico è perfetto, ma da un sistema modificato per via surrettizia, da un sistema che funziona cioè in modo diverso da quello in cui dichiara di funzionare, non ci si può aspettare niente di buono. Ma l'uomo è fatto così, quello che vuole, regole o non regole, se lo prende e gli altri si grattino. Visto che sarebbe stato lungo e complicato trasformare la Costituzione della Repubblica in senso presidenziale, gli basta comportarsi come se il presidenzialismo ci fosse già. E per questo preferisce farsi chiamare Premier anziché Presidente del Consiglio dei Ministri. Ed è un peccato che nel mondo dei media ci siano tanti servi disposti ad assecondarlo. Per questo, quando può, si esibisce su un podio sormontato da un pataccone mutuato da quello del Presidente degli Stati Uniti. O prende delle iniziative di politica estera, come quella di invitare i capi di Stato e affini nelle sue residenze private o di presenziare il matrimonio dei loro congiunti, che non sono previste da nessun protocollo. E se nulla di tutto questo è ovviamente illegale, non è detto che il nostro non sappia, se necessario, andare oltre. E in fondo la logica di questi comportamenti è la stessa in base alla quale, non essendo in grado di ridurre come promesso il carico fiscale, opera in via informale, assolvendo a priori quei cittadini abbienti che il carico se l'autoriducono evadendo le tasse. E a proposito di autoriduzione, tutta questa faccenda mi ha fatto venire in mente in un certo senso i tempi lontani della mia giovinezza, quando il disordine era grande sotto il cielo e la situazione, senza essere proprio eccellente, era perlomeno abbastanza interessante. Vigeva allora, in alcune delle organizzazioni estremiste che turbavano la pace sociale, una strategia nota talvolta ai teorici come pratica dell'obiettivo. Era quella, per intenderci, del prendiamoci la città. La prassi per cui la riforma della casa consisteva nell'occuparla e nel non pagare l'affitto. Il problema del potere d'acquisto dei salari si poteva risolvere con qualche forma di esproprio proletario. Tutte pratiche disdicevolissime, che si diceva avrebbero portato il paese sull'orlo del baratro e da cui d'altronde quasi tutti coloro che le sostenevano si sono debitamente dissociati da un mucchio di tempo. Ma erano propugnate da forze che si consideravano torto a ragione rivoluzionarie e quindi nel tentativo di rovesciare il sistema, come si diceva, dispiegavano se non altro una certa lozza logica. Oggi gli obiettivi sono evidentemente cambiati, ma la pratica a quanto pare resta la stessa. E vederla applicata a modo suo da Sua Eccellenza il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, beh, a me fa un certo effetto. Succede sempre così, avremmo detto allora, con il nemico di classe. Se solo gli fai capire di avere una buona idea, te la frega subito. Don't need another resolution to feel as though I'm going somewhere.